Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. I love Italy. Yeah, I love Italy. Con Andy Mangiarotti su Radio Miami. I love Italy. Yeah, yeah, yeah. Un ringraziamento al nostro amico Marco Arensi, questo grande cantautore, per la sigla. Bentrovati e benvenuti su Radio Miami International. Questi sono i 15 minuti in lingua italiana di I Love Italy. Alla conduzione, come sempre, Andy Mangiarotti dallo studio dell'Oltrepò Pavese. I Love Italy, vi ricordo, è un contenitore di 15 minuti in onda sulle onde corte, sulle poderose antenne di Double RMI, Radio Miami International, che trasmette in diretta da Okeechobee in Florida. Se volete interagire con la trasmissione, vi ricordo la mia mail, che è la seguente: andrea@mangiarotti.org, andrea@mangiarotti.org, per richiedere cartoline QSL oppure semplicemente per parlarci un po' di voi. Poi abbiamo i nostri siti web: www.andreamangiarotti.com oppure il sito della trasmissione www.voiceofitaly.it, www.voiceofitaly.it. E poi abbiamo anche il sito della radio che gentilmente ci ospita, www.wrmi.net, il sito di Radio Miami International, per essere informati sulla messa in onda della nostra trasmissione e per scoprire un po' tutte le trasmissioni in tantissime lingue che Radio Miami International da sempre, diciamo così, permette l'ascolto da tutti voi che ci sentite da svariate zone del mondo. Noi siamo in onda sui 15.770 kHz, ma siamo anche in onda sui 7.730 e 5.850 kHz. Anche quest'oggi una bellissima trasmissione del nostro rotocalco, che vi ricordo dura esattamente 15 minuti. Chers auditrices et chers auditeurs, vous écoutez les émissions en langue italienne de WRMI, Radio Miami International. Au micro, Andy Mangiarotti. Pour écrire à la rédaction italienne, visitez les sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com ou le site wrmi.net. Profitez de l'écoute avec I Love Italy, la voix de l'Italie, votre émission qui parle italien dans le monde. Oggi voglio condividere con voi alcune delle lettere che abbiamo ricevuto dai nostri fedeli ascoltatori un po' da tutto il mondo. Vediamo la prima lettera. Egregio signore, sono Peter Goldfink da Morley Drive in Australia. Ah, Peter, un saluto. Ci scrive appunto questo nostro amico australiano e ci dice: sono molto lieto di informarvi che ho ricevuto il vostro programma I Love Italy sabato 25 gennaio 2025 dalle ore 20.45 sino alle ore 21 UTC sulla mitica frequenza del 15.770 kHz trasmesso da Double RMI da Okeechobee in Florida. Allego un breve file audio per mostrare la qualità di ricezione qui dall'Australia occidentale. È stato un piacere ascoltare il vostro programma per la prima volta e spero di poter riceverlo regolarmente. È davvero meraviglioso poter ascoltare di nuovo un programma in onde corte dall'Italia. Grazie veramente, Peter, gentilissimo. E il nostro amico australiano ci segnala un Simpo 4 544. La forza del segnale era molto buona, senza interferenze di altre stazioni di trasmissione. Il rumore atmosferico e l'affievolimento del segnale erano veramente minimi. WRMI fornisce un eccellente segnale qui sui 15.770 kHz durante la nostra estate, che dura da dicembre a marzo, tra le 20 e l'una di notte UTC. Il mio ricevitore è un ICOM R75 e utilizzo anche un'antenna finale lunga circa 5 metri. Ho apprezzato molto la canzone italiana, sebbene non abbia colto il nome del cantautore. Caro amico Peter, The Italian Song is the great artist Massimo Marocchi H. Miedo. This is the song of the Italian artist Miedo. Ho apprezzato molto la canzone. E poi mi dice anche: ho 62 anni e risiedo a Perth, in la capitale appunto dell'Australia occidentale. Sarei molto grato di ricevere la vostra cartolina di conferma. Spero che questo rapporto sia di vostro interesse e vi auguro un continuo successo dalle vostre trasmissioni. Lui mi dice che ci ascolta dal cortile, praticamente ha una postazione nel suo cortile dove riesce a eliminare i vari rumori esterni elettronici, e quindi lui si adopera magari nelle calde notti australiane estive a fare dei bei radioascolti internazionali. Querida oyente, se están escuchando los programas en italiano de WRMI, Radio Miami International. En el aire, Andy Mangiarotti. Para contactar con la redacción italiana, visiten los sitios web voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com o .wrmi.net. Disfruten con I Love Italy, la voz de Italia, el programa que habla italiano en el mundo. E ci ha riscritto anche il nostro amico brasiliano. Ciao Andrea, come stai? Sono Reginaldo Anunziao, scusate se non è corretto il cognome, da Barra Mansa, Brasile. Ho ricevuto la tua lettera ieri, grazie mille per la bellissima cartolina QSL, una splendida immagine di una chiesa. Ho mandato la cartolina QSL direttamente dalla città da dove vi sto parlando qua in Italia, Broni, nell'Oltrepò Pavese. È un piccolo paesino dove si può dire trascorre le sue ferie estive il noto stilista Giorgio Armani. Giorgio Armani è di casa qua a Broni, appunto nell'Oltrepò Pavese, lo studio di Radio Miami International dislocato in Italia. Mi piace molto la musica italiana, mi scrive Reginaldo. Ricordo che il gruppo I Santi California ha avuto un grande successo in Brasile con la canzone Tornerò già nel 1975. Avevo 7 anni, ma me lo ricordo molto bene. Anche l'Italo Disco degli anni 80 ha lasciato un'impronta indelebile nel mio paese. Spero di sentire la prossima trasmissione. Grazie tante, felicità e congratulazioni, Reginaldo da Barra Mansa, Brasil. You are listening to the Italian language broadcast of WRMI Radio Miami International. On the microphone, Andy Mangiarotti. To write to the Italian editorial staff, visit the sites voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com, or the site wrmi.net. Enjoy listening with I Love Italy, Voice of Italy, your broadcast that speaks Italian in the world. Dalla bella Australia ci trasferiamo alla bellissima e affascinante Cina. Ci scrive il nostro amico Ding Lung dalla città dello Jiangsu, Repubblica Popolare Cinese. Un saluto speciale da lontano oriente, mi dice appunto l'amico Dean Lung. Proprio oggi ho ricevuto con chiarezza il segnale del vostro programma in italiano sulle onde corte dalle ore 01:15 sino alle ore 01:30 UTC sulla frequenza dei 5850 kHz. La qualità del segnale era ottima, l'ascolto chiaro, sebbene con un leggero rumore di fondo. Vorrei tanto ricevere una cartolina QSL, se se è possibile, anche qualche souvenir con il logo della trasmissione. Il mio rapporto di ricezione è il seguente: orario di ricezione 12 febbraio 2025, 01:15, 01:30 UTC, frequenza dei 5850 kHz, che ci fa sapere l'amico Ding Lung si ascolta molto bene in Cina. Poi mi dice che ha utilizzato una radio Texun PL300ET con antenna esterna, luogo di ricezione lo Jiangxin, nello Jiangsun, Repubblica Popolare Cinese. Ricezione ordinaria con un po' di rumore di sottofondo. Ci segnala l'amico Ding Lu un Simpo 43444. Apprezzo molto i vostri programmi e spero di ricevere presto una risposta. Oggi è il 15° giorno del primo mese del calendario lunare. Festeggiamo la festa delle lanterne, la prima luna piena del nuovo anno. In questo giorno speciale auguro a tutti voi il meglio della vostra vita. E noi anche a te, caro Don Ling, ti auguriamo il meglio per la tua vita, a te e alla tua bella nazione. E ora, ragazzi, andiamo avanti con un altro argomento molto molto interessante. 亲爱的听众们, 你们正在收听 WRMI Radio Miami International 的意大利语节目, 正在播出的是 Andy Mangiarotti, 要练习意大利编辑部, 请访问一下网站 voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 或 wrmi.net, 请享受 I Love Italy 意大利之声, 这是一个在世界各地讲述意大利语的节目。 Ringraziamo tutti i nostri ascoltatori e ora entriamo nel focus di questo episodio, che non poteva che essere la Santa Quaresima. È il periodo che stiamo vivendo, è un periodo di 40 giorni che precede la Pasqua, nella tradizione cristiana, durante il quale si vive un tempo di penitenza, riflessione, preghiera e digiuno. Inizia con il mercoledì delle ceneri e termina il giovedì santo, in preparazione alla celebrazione della risurrezione di Gesù Cristo. È praticamente un momento per avvicinarsi spiritualmente a Dio e rinnovare fede e riflettere sul sacrificio di nostro Signore Gesù Cristo. Giusto appunto, in conclusione vi voglio leggere un bellissimo passaggio dal Vangelo di Matteo, capitolo 6, versetti 16 e 21. Quando digiunate, non diventate malinconici, come gli ipocriti, che assumono un'aria triste per far vedere agli altri che digiunano. In verità, vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo, che è nel segreto, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Non accumulare tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano e dove i ladri scassinano e rubano. Accumulate invece tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano e dove i ladri non scassinano né rubano, perché dove il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Bellissimo questo passaggio che abbiamo letto da Matteo, capitolo 6, versetti 16-21. E la riflessione finale è che la Quaresima è un tempo di rinascita, un'occasione per spogliarci dal superfluo e ritrovare l'essenziale. Digiuno, preghiera e carità non sono solo pratiche esteriori, ma gesti che trasformano il cuore. È il tempo per ascoltare di più, per amare meglio, per scoprire che il vero tesoro non è ciò che possediamo su questa terra, ma ciò che doniamo all'altro e ciò che troveremo alla casa del Padre. Che questo tempo sia per tutti un cammino di luce, speranza e conversione. Buona Santa Quaresima a tutti. Sia lodato Gesù Cristo. Io ringrazio Jeff White e Double RMI per lo spazio. A Dio piacendo, ci sentiamo prossimamente. Ciao da Andrea. Ciao, un caro saluto a tutti voi. 다음은 이탈리아어로 된 당신의 텍스트의 번역입니다. 다음은 당신의 스페인어 텍스트의 번역입니다. 친애하는 청취자 여러분, 여러분은 이탈리아어로 된 WRMI, 라디오 마이애미 인터내셔널의 프로그램을 듣고 계십니다. 방송 중 앤디 망기아로티. 이탈리아어 편집부에 연락하려면 다음 웹사이트를 방문하십시오. voiceofitaly.it, andreamangiarotti.com 또는 wrmi.net, I love Italy, 이탈리아의 목소리를 즐기십시오. 이 프로그램은 세계에서 이탈리아어를 말합니다. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? Italy, yeah. I love Italy, con Andy Mangiarotti su Radio Miami. I love Italy, yeah, yeah, yeah.